vista albero mutilato, i miei compagni sul lato opposto a quello che ho festato. Son dato per disperso se qualcosa è cambiato. È soltanto che un soldato vibra in un altro universo. Piango sui libri, nuoto nel fango, fa gribble e dingos. Riguardo foto con gente che ormai non distinguo. Non ho più sbalzi di ormoni, cavalco suoni su monsoni. Non so niente meglio di prima, i miei ricordi sono aloni. La mia via continua, penso ebay. Tempi di sto cazzo, perso pagina 46 con le soluzioni. Immerso in tragedia, io non abbandonai le navi. Sulla strada verso casa, ero rimasto senza chiavi. E poi silenzio, seguo virtute e conoscenza anche andando in venzio. M'hai dato per sconfitto nel conflitto, l'anima non è morta. Ogni rima che ho scritto pompa rosso dalla orta. Alle mani, alle tempie e post scriptum, io sono più sicuro, io resto ancora vivo. Io sfondo sul soffitto, il muro, le tue casse, il pubblico, perché sono l'unico a guidare sempre dritto. Sabbia dalle mani che scappa, non so che è successo adesso. O io, o voi, o il mondo a non essere lo stesso. Vado a razioni capa, cerco ma c'è te la verità. In attesa che la terra collassi, ogni sinapsi che è rimasta intera isterica. Combatto sangue fantasma ed altre entità, girando in fondo dentro una giungla desertica. Ogni stella identica la realtà che non mi merita. Allora ho spento il sole che non vuole splendere, ucciso e fatto a brandelli chi vuole offendere. Suonato l'ultima canzone o qualcosa del genere, dato fuoco al mio corpo per tornare dalla cenere. Io, mentre il sole sta svanendo all'orizzonte, ancora vivo ma scia, e raggi via le porte di Tannhäuser, ancora vivo ma scia. Sapere che niente conta quando hai negli occhi quel che gli altri non vedranno mai. Morire una volta e vivere per sempre. Ho viaggiato nel freddo, faccia a faccia con la mia ombra del bianco velo del tempo. Io voglio che la notte fonda col vento, incastonando tenebre in ogni frammento di sample. Io vivo morendo dissanguato, segnando in rosso le frasi. Speranze fuggite al momento in cui c'ero quasi. Castelli rasi, tornato dalla stasi, perdendo nuove lune dai rami dell'Yggdrasi. Fatta morgana nel deserto, dune paranoia, il tuo dio morto. Penso non tirare le cuoia su un battello sbronzo. Salpo da un porto sepolto, l'Arcadia porta lontano, lontano nello spazio-tempo. Alimento, un cielo spento, fin quando non mi ucciderete come Luigi Tenco. Crocifisso i fili del destino nei miei deliri, rubo la lancia di Longino per fare rakiri. Foto in primo lo scibile su papiri, nascondendo le mie colpe dentro le ombre dei vampiri. Sono un vangelo anticristiano, nato dalla stessa materia che forma i ciechi nel grano. In una stanza di gomma fuori dal manicomio urbano, sotto una luce fioca alla stregua d'un paria. La mano va intermittenza, l'ultimo uomo sulla terra scrive con penna d'oca, morta di influenza aviaria. E la crociata d'un solo che ha scoperto che l'oro c'è reso schiavi grazie all'acqua avvelenata dal fluoro. Dalla torre d'avorio, i figli dell'amante, dei prossimi servi del re che siede sul trono di Atlantide. Intanto duello con le ansie che mangiano le mie membra. Niente sarà più come sembra, che aspetta il mio cadavere sul fiume. Lascerò che attendo oltre le galassie, io sono leggenda. Mentre il sole sta svanendo all'orizzonte, ancora vivo ma scia, e raggi via le porte di Tannhäuser, ancora vivo ma scia. Sapere che niente conta quando hai negli occhi quel che gli altri non vedranno mai. Morire una volta e vivere per sempre. Per sempre. Mentre il sole sta svanendo all'orizzonte, ancora vivo ma scia, e raggi via le porte di Tannhäuser, ancora vivo ma scia. Sapere che niente conta quando hai negli occhi quel che gli altri non vedranno mai. Morire una volta e vivere per sempre.